tutte, siamo qui davanti alla facoltà di lettere occupata e ci stiamo concentrando, a breve bloccheremo il traffico e inizieremo a partire in corteo. E la facoltà piano piano si sta riempiendo, sono anche arrivati da poco gli studenti delle scuole del territorio di Roma Sud, per il momento soltanto i ragazzi del Keplero, e piano piano la piazza, la facoltà si sta riempiendo. E i numeri ancora sono difficili da stimare, però insomma si preannuncia un corteo abbastanza spinto che andrà verso il Monte Citorio e insomma avrà come prima tappa Piramide, un corteo che si sta ingrossando piano piano, ancora non è partito, partiremo immagino fra 5-10 minuti. Senti, voi avete intenzione di unirvi anche con il corteo degli studenti medici? Siamo collegati da poco, loro sono ancora a Piazza Trilussa, ma sono tantissimi, hanno intenzione di bloccare il Lungotevere e probabilmente si avvicineranno verso di voi. Ma noi stiamo in contatto ovviamente con quella piazza e già il fatto che ci abbiano detto che si è riempita è sicuramente uno dei dati che più ci ha colpito e ci interessa. Indubbiamente staremo in contatto tutta la mattinata e se ci sarà l'occasione ci si incrocerà. L'idea ovviamente non è quella di creare un unico grande corteo, ma è quello di bloccare la città, perché oggi sta passando una riforma infame che ucciderà il nostro futuro e credo che quell'importante pezzo di città che è Trilussa, che sicuramente dimostrerà una grande prova di forza oggi nuovamente in piazza, si collegherà perfettamente con la nostra ulteriore prova di forza che parte da Roma 3 per bloccare questa città, per bloccare questa riforma. Senti una cosa, una domanda che stiamo un po' facendo a tutti. Tu giustamente, stavi dicendo che c'è anche l'eventualità che il DDL passi. Diciamo, ci sono buone possibilità che passi, ma comunque gli studenti seguiranno queste mobilitazioni in qualche modo, nel caso in cui passi continueranno le proteste da subito oppure aspetterete un pochino prima di ricominciare? Cioè, quali sono le prospettive? Io credo che al di là se oggi passi o no la riforma, credo che sicuramente non è qui che si può chiudere questa stagione. Uno, perché il nostro futuro non è che può essere come non si può sintetizzare in una giornata, perché i problemi del lavoro, i problemi del nostro futuro, della precarietà che ci incombe, ci impongono di continuare a mobilitarci, di continuare a lottare e soprattutto continuare a riappropriarci di tutto quello che questo DDL ci sta togliendo, ma in generale tutto quello che questo governo e questo Stato ci sta togliendo. Quindi credo che questo è un passaggio fondamentale, questa giornata dovrà essere affrontata con la volontà di dare un segnale chiarissimo, ma le lotte non si possono certo fermare perché passa un DDL. Certo, anche perché poi da studente, quale sono anche io, credo che questo movimento abbia dei punti di forza rispetto a quello che è stato il movimento dell'Onda di 2 anni fa e credo che possa diventare un movimento studentesco anche di più ampio respiro, insomma, che non ci si occupi poi soltanto insomma, in queste mobilitazioni abbiamo visto che non c'è solo la critica al DDL Gemmini, ma a tutta una serie di cose che caratterizzano questa società e che caratterizzano specialmente la vita dello studente universitario, quali possono essere il precariato, il problema della casa. Sì, questa è una cosa che poi noi l'abbiamo segnalata più volte. Poi io credo che quest'anno, e lo possiamo dire con tranquillità, in questa stagione di lotte, gli studenti delle scuole, quelli che oggi stanno concentrati a Trilussa, che portano ancora il numero più grande di questa giornata, perché a quanto pare sono più di 4.000, e sicuramente danno un dato importante, che loro si sono dimenticati tutto un pezzo di futuro che va oltre il DDL Gelmini. Ricordiamo che oggi è in discussione qualcosa che è legato all'università e che quindi è legato al loro futuro rispetto al passaggio scuola-università. E questo credo che sia il segnale più importante, al di là del fatto appunto che oggi si discute dell'università e non del liceo, perché loro l'hanno detto, riprendiamoci il futuro, non vuol dire soltanto protestare contro una riforma, ma vuol dire iniziare a pretendere delle risposte sul problema del lavoro, della precarietà abitativa, anche con l'occupazione che hanno fatto al Maxi, l'hanno dato un altro segnale che non si può vivere in un sistema che non ti permette di andare al cinema, accedere al teatro con dei prezzi agevolati, e questa è una risposta che vuole parlare di tutto quello che è il tema della precarietà giovanile, e quindi credo che a partire anche dal dato politico che pongono a noi gli studenti medi, noi possiamo soltanto che rilanciare e cogliere il fatto che non si chiude con l'altra riforma una stagione di lotta, ma si chiude con l'appropriazione di tutto quello che serve per vivere, perché qui è in gioco il futuro, è in gioco la vita di tutti gli studenti che hanno dei temi importanti a doversi porre. Quindi grazie a tutti e tutte, e noi andiamo in corteo ora. Va bene, dai. Allora, naturalmente, qualsiasi cosa richiamate, sicuramente anche noi vi richiameremo. Questa radio è sempre aperta. Un abbraccio, buona lotta.